24 mattino. Le 8 e 16 minuti, ben ritrovati a 24 mattino. Vi ricordo che c'è anche una mail, 24mattino@radio24.it, oppure un numero per gli sms 349-238-6666. Guidate piano, come avete sentito è una giornata difficile ed è il momento di parlare di economia. Soldi e dintorni. Eccoci qui, soldi e dintorni, è il momento di ritrovare Deborah Rosciani. Ciao Deborah, ben ritrovata. Sì, buongiorno, a dispetto della neve siamo qua stamattina. Ce l'abbiamo fatta, è stata faticosa anche a Milano, una grande città, ma insomma strade già sporche, però questo è. Allora, si dà il caso che molti italiani hanno un mutuo, un finanziamento, hanno insomma delle rate da pagare, hanno sì, qualcosa, delle scadenze imprerogabili, no? Scadenze imprerogabili che sono diventate ancora più interrogabili negli ultimi anni. Il fenomeno del credito al consumo ha conosciuto nel nostro paese tassi di crescita inimmaginabili per un paese come il nostro. Dalle 2000 in poi il livello di indebitamento in Italia ha appunto conosciuto livelli molto alti, senza tuttavia oggi potremmo dire anche per fortuna raggiungere i livelli europei, né tantomeno quelli statunitensi. Un popolo di risparmiatori, negli ultimi anni ci siamo trasformati da così a popolo di consumatori a rate che, alla luce delle difficoltà economiche attuali, milioni di italiani pagano con sempre maggiori difficoltà e ritardi, oppure non pagano affatto. Infatti sempre più evidente che in Italia chi è indebitato tende ad essere pericolosamente sovraindebitato, e se da un lato la crisi finanziaria e il peggioramento del clima di fiducia hanno portato ad un atteggiamento più cauto nel ricorso al credito, dall'altro non ha fatto che moltiplicare la percentuale di chi non riesce a far fronte ai propri debiti. Perché questa mattina parliamo di questo argomento, tema che affrontiamo molte volte anche a Salvadanaio, perché ha suscitato un certo interesse l'inchiesta pubblicata nel fine settimana dall'Espresso, Mal di debiti, ecco l'Italia senza soldi che non riesce più a pagare le rate, un viaggio con gli incaricati del recupero crediti. Buongiorno e ben ritrovato, ben trovato perché è in questo, come dire, contenitore per la prima volta, Gianpaolo Luzzi dello studio Luzzi e Associati, è uno studioso del credito al consumo, è autore anche del libro Come non pagare i debiti, tra virgolette naturalmente, vivere felici, oltre che un recuperatore. Luzzi, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno ai radioascoltatori. È un recuperatore, giusto? Direi di sì, da 25 anni all'incirca. Senta, parlavamo appunto di questa inchiesta pubblicata dall'Espresso, dove si raccontano anche storie di molte famiglie in difficoltà. Ci sono molte testimonianze tra chi non ha alcun timore a saltare le rate e spera, auspica, è convinto a volte anche di farla franca, ma c'è anche chi invece vive questa situazione di difficoltà come un'onta imperdonabile, Luzzi, perché molto spesso è così, ci si ritrova a volte a non poter far fronte ai propri impegni finanziari perché magari improvvisamente la situazione della propria vita cambia. Assolutamente sì, fra l'altro, se posso dire, i professionisti dell'insoluto, quelli che ci marciano, secondo me sono sostanzialmente una nicchia. La maggior parte sono persone che la vivono, questa situazione di insolvenza, in maniera pesante, drammatica, con ripercussioni anche gravi all'interno della famiglia, sì. Abbiamo affrontato, dicevamo, molto spesso il tema della crescita del credito al consumo nel nostro paese, un fenomeno che fino a qualche tempo fa è stato visto assolutamente come sano. Oggi, a suo avviso, comincia a presentare invece il conto di una crescita a cui il nostro paese era impreparato? Ma senta, io penso una cosa, il credito al consumo, abbia pazienza, per me è una cosa positiva perché insomma ci ha consentito una maggior libertà nel poter ottenere determinate cose. Il problema non credo sia soltanto quello, quanto il fatto che insieme alla crescita del credito al consumo non c'è stata una crescita, per dire, degli stipendi, ci sono stati una sottovalutazione della situazione economica complessiva di chi si andava poi a indebitare. E vorrei anche dire che non esiste soltanto un indebitamento finanziario. Per dire, come società di recupero crediti, probabilmente la stragrande maggioranza delle pratiche che si vanno a recuperare sono quelle delle utenze, le bollette della luce non pagata piuttosto che del telefono. È questo insieme, che non è stato secondo me ben valutato, che crea un detonatore eccezionale, specie adesso in tempi di recessione, insomma. Ecco, ci spieghi un po', Luzi, che cosa succede in concreto quando ci si ritrova nell'impossibilità di far fronte al proprio impegno finanziario. Cosa succede in concreto se non si riesce a pagare i debiti? Perché, come dicevamo, si tratta di situazioni molto delicate in cui ci si può ritrovare senza volerlo per ragioni familiari improvvise e però molto spesso appunto l'atteggiamento davanti al creditore è sbagliato, perché non dobbiamo dimenticare che a volte questa è una figura che ci può anche aiutare a pianificare una strategia di rientro da una situazione finanziaria difficile. Sì, direi di sì. In effetti, quando non si riesce a pagare, la cosa migliore sarebbe prendere immediatamente contatti con il creditore e quindi affrontare sostanzialmente il problema. Non lo fa praticamente nessuno, per cui semplicemente si smettono di pagare, qualsiasi sia la rata, che sia il credito al consumo, piuttosto che uno scoperto di conto, piuttosto che una bolletta, e attendono. E quello che accade adesso sostanzialmente è che arriva un sollecito scritto, molto più spesso telefonico, e anche qui normalmente spesso e volentieri il debitore ancora non si attiva, ancora rimane piuttosto indeciso sul da farsi, non riesce a darsi un'organizzata, e a quel punto gli arriva a casa la visita domiciliare di un recuperatore professionista. In questa fase è una fase che, se vissuta correttamente, è una fase importante. Siamo ancora in sede stragiudiziale, il creditore ha ancora intenzione di risolvere il problema con le buone, e quindi è un'occasione, secondo me, per il debitore ottima, avere a che fare con un recuperatore di crediti, perché si riesce ancora a sistemare le cose in via bonaria. Perché secondo lei, Luzi, le famiglie che si trovano in difficoltà hanno il pudore, non so come altro definirlo, di così cercare di stabilire in via preventiva un contatto con la banca, con la finanziaria, per poter dire in anticipo: guardate, probabilmente mi potrò trovare in difficoltà, quindi sappiate che potrei trovarmi in ritardo nel pagamento di una rata. Perché? Penso ci sono due i fattori principali. Allora, l'uno è la difficoltà a rendersi conto loro stessi che la situazione gli è cambiata. Questo è un aspetto che psicologi hanno studiato. Davanti a un cambiamento in peggio, ma per paradosso anche in meglio, cambiare le vecchie abitudini diventa difficile. Quindi una percezione ottunda, no? di quello che sta accadendo, e quindi niente, rimangono poco più, poco meno imbambolati, e non si rendono conto che la situazione sta precipitando. Dall'altra parte poi, quando incomincia la percezione di quello che sta accadendo, scatta la vergogna. Spesso e volentieri queste persone non dicono nulla neanche in famiglia. Ci sono tante mogli, mamme, insomma genitori ignari di quello che sta accadendo al coniuge piuttosto che al figlio. E quindi da questa doppia combinazione nasce il fatto che la reazione è molto in là nel tempo. Scatta la vergogna e poi un'inadeguatezza a sapere cosa vado a dire, con chi devo parlare, cosa gli devo proporre. E quindi è una situazione di confusione anche complessiva e generale. In questi casi sarebbe fondamentale non perdere la calma. La famiglia, almeno negli aspetti diciamo economici, è una piccola azienda. In azienda non si può perdere la calma, qualsiasi cosa accada va affrontata e risolta. In famiglia, per quanto riguarda la parte economica, bisognerebbe agire nella stessa identica maniera, ma questa percezione manca. Luzi, nel corso della sua esperienza, che immagino sia abbastanza vasta, tanto che lei è stato portato appunto a scrivere molto di questo argomento, soprattutto a scrivere anche dei vademecum su come effettivamente cercare di affrontare delle situazioni così difficili quando ci si ritrova a nostro malgrado appunto a doverle affrontare, quali sono le situazioni più difficili e complicate anche dal punto di vista emotivo che ha dovuto gestire anche come recuperatore? Ma guardi, quando si ha a che fare, per dire, con una famiglia indebitata in cui è morto il capofamiglia, l'apportatore del reddito, sono situazioni assolutamente delicate. Situazioni delicate e drammatiche quando capita di dover andare a recuperare su una persona che ha già perso la casa, l'immobile, e magari c'è anche lo stipendio pignorato. Ti guardano e dicono: ma che volete da me? Un litro di sangue? È una situazione incredibile, ma per dire, a proposito di rimanere ottundi, imbambolati, un po' come le lepri in mezzo alla strada, no? Quando si investono col fascio di luce, e per dire, chi è sotto pignoramento immobiliare, e nella maggior parte dei casi non fa nulla, si fa levar via la casa e oltretutto rimane ancora indebitato, perché vabbè, lì c'è tutta una situazione di spese ingentissime, eccetera. E una volta è capitata una situazione incredibile, ma purtroppo che si ripete, di una signora che aveva messo una firma per fare un piacere a suo fratello, il fratello poi se n'era scappato via, lei si era ritrovata coobbligata, aveva perso la casa, aveva perso il marito arrabbiato nero per questa situazione, l'abbiamo trovata in un centro sociale con due bambini e non aveva anche fatto lei il debito, insomma. E insomma, sì, situazioni molto, molto difficili. Luzi, abbiamo un minuto di tempo, anzi forse un po' meno, prima di salutarci ci dà due consigli per poter evitare di ritrovarci intrappolati dal punto di vista finanziario e a volte anche emotivo in situazioni di questo tipo dalle quali poi è difficile uscire? Ma guardi, in un flash, intanto non perdere la calma, poi vedere effettivamente se il credito esiste, dopodiché parlare e affrontare il problema, non avere atteggiamenti inutilmente aggressivi, considerare un'eventuale società di recupero crediti come un momento per risolvere la faccenda in via bonaria. Grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi. A presto. Grazie. Alessandro. E allora, eccoci qua, c'è molta gente invece che ci scrive che è intrappolata nella neve, insomma, in macchina. Sì, ovviamente. Esatto, e noi l'abbiamo scampata bella stamattina, Alessandro. Sì. Sai, quando ci si sveglia alle 5:30 le strade sono più vuote. Alle 12? Alle 12 parliamo di mutui, cominciamo ad esplorare, visto che ormai è legge il provvedimento anticrisi del governo, cominciando con i mutui e il tetto del 4%. Benissimo, noi invece tra poco parleremo della tariffa Milano-Roma aerea, che sta facendo arrabbiare molti consumatori. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:31 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Diamo uno sguardo alle ultime notizie. Volevamo solo divertirci, si è giustificato così uno dei tre ragazzi che ieri hanno picchiato e dato fuoco a un immigrato indiano a Nettuno, vicino a Roma. Il gesto è arrivato al termine di una notte brava di alcol e droghe. Ancora maltempo in tutta Italia, disagi su strade e autostrade, la neve sta cadendo da ore anche a bassa quota nel centro-nord, interessati 800 chilometri di autostrade. Danni invece al sud per le forti piogge, ieri anche due morti in provincia di Trapani. Gli scioperi contro gli operai italiani in Gran Bretagna sono indifendibili nelle forme, lo ha detto il premier britannico Gordon Brown commentando le proteste di centinaia di lavoratori del Regno Unito contro la presenza di operai italiani dell'azienda siracusana Irem. Infine lo sport con il football americano. I Pittsburgh Steelers hanno vinto nella notte il Super Bowl battendo gli Arizona Cardinals 27-23. Il touchdown della vittoria è arrivato a 35 secondi dalla fine. E in Italia il calcio, il Milan batte 3-0 la Lazio ieri nel posticipo e sale al secondo posto in classifica a meno 6 dall'Inter, che non va oltre l'1-1 in casa con il Torino. Oggi si gioca Bologna-Fiorentina, rinviata ieri per neve. Ed è il momento, come di consueto, dell'editoriale del direttore del Sole 24 Ore, oggi dedicato proprio a ciò che succede in Gran Bretagna con le proteste contro gli operai italiani. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. La protesta contro la commessa assegnata a un'azienda italiana nella raffineria inglese di Lindsay è sempre più forte. Nuovi scioperi sono previsti oggi. Il premier Brown ha difeso le ragioni del mercato unico del lavoro, ma perde consensi, e il governo inglese è accusato di difendere poco i suoi operai. Beh, faceva una certa impressione ieri vedere quegli operai siciliani quasi sequestrati su una nave in porto, impauriti e abbandonati a se stessi. Già il disagio di lavorare all'estero e neanche la libertà di uscire ed entrare in un pub. Che differenza con i tanti lavoratori inglesi di società che hanno vinto commesse un po' dappertutto in Italia, che sono accolti con simpatia senza che nessuno di loro sia accusato di portar via il posto ai propri connazionali. Ma questa è la faccia più dura del mercato unico europeo, della globalizzazione. Quando il lavoro comincia a mancare, scatta la tentazione di proteggersi. Una tentazione forte, ma del tutto inutile. Colpisce anche l'indifferenza italiana, e non solo del governo. Non abbiamo ascoltato finora dichiarazioni, nemmeno dai soliti intervistati dei telegiornali. Fosse stata bloccata la truppa dell'Isola dei Famosi, avremmo avuto più reazioni, anche dalla stampa. Buona giornata. Grazie allora a Ferruccio De Bortoli, direttore del Sole 24 Ore, lo ritroveremo ovviamente domattina. Milano-Roma in aereo costa più il Milano-New York, questo almeno titolava un'inchiesta di qualche giorno fa del quotidiano nazionale, un'inchiesta che comparava le tariffe, ovviamente poi bisogna vedere le tariffe che si vanno a comparare. D'altronde sapete che sul Milano-Roma, sulla tratta aerea, c'è quel monopolio garantito in deroga all'antitrust alla nuova Alitalia. E ci sono i consumatori arrabbiati, ci sono compagnie che dicono, altre compagnie aeree che dicono fate volare anche noi, lasciate liberi gli slot e noi siamo pronti a volare da domani stesso, da oggi stesso, a tariffe ben più basse, non i 300-325 euro che a volte si leggono per alcune tariffe della nuova Alitalia, ma a 100-120 euro eccetera. Di questo parliamo. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Saluto Gianni Dragoni del Sole 24 Ore. Gianni, buongiorno, che segue questo tema. Buongiorno. Molto molto bene. Allora, è un problema posto bene dai consumatori in questo modo, dalle compagnie che dicono fate volare anche noi, Lufthansa dice andremo all'antitrust europeo, oppure è un problema posto male? Con la costituzione del monopolio tra la vecchia Alitalia e Air One nella nuova compagnia unica italiana privata, sulla rotta Roma-Milano, la più cara del mondo, lo disse già la Banca d'Italia alcuni anni fa, quindi non so se costi più che volare a New York, ma certamente è la più cara del mondo, c'è una sola compagnia che applica le tariffe che vuole, nessuno finora è intervenuto, i poteri dell'antitrust sono stati congelati per legge, anche se non del tutto, quindi la stessa antitrust che dice di tenere sotto controllo i prezzi avrebbe potuto o potrebbe ancora fare degli interventi più incisivi, ma si sa, per questo ci vuole sempre tempo e c'è sempre un certo ritardo delle autorità. L'antitrust ha anche detto vigileremo, insomma, ma cosa vuol dire vigilare, visto che c'è la deroga dell'antitrust in questo momento? Ma intanto è quello che diversi viaggiatori, consumatori hanno segnalato in questi mesi, purtroppo non ci sono indagini precise, è che i prezzi dei biglietti sulla Roma-Milano, siccome questa operazione di unione delle due compagnie ha richiesto alcuni mesi, perché è partito tutto in settembre ma si è perfezionata poi in dicembre, erano già aumentati negli ultimi mesi e non è che poi la concorrenza di Air One ad Alitalia sulle tariffe fosse così feroce, però c'era sempre un'alternativa. Adesso effettivamente le tariffe sono più alte, ma il problema non è solo se sono più alte o no, c'è una sola compagnia e una sola compagnia significa nessuna concorrenza. Allora, a parte il treno. Tra l'altro, esatto, tu hai detto a parte il treno, ieri Colaninno intervenendo alla Luce Annunziata ha detto il treno è la nostra vera concorrente sul Milano-Roma e dovremo per questo abbassare i prezzi, le tariffe. La parola chiave da tenere a mente è quella, slot. Slot, che cos'è in campo aereo? È la finestra di tempo dentro il quale un aereo ha il permesso al decollo. Gli slot sono limitati perché ogni aeroporto ha un numero di slot di decolli e atterraggi quotidiano. Io voglio salutare Carlo Griselli che presiede AssoClearance. Buongiorno. Buongiorno a lei. AssoClearance è l'associazione che è preposta proprio dallo Stato per l'assegnazione degli slot. Griselli, moltissime compagnie dicono gli slot di Alitalia, gli slot che ha Alitalia, non sono tutti utilizzati, per esempio a Linate, che li dessero ad altre compagnie in modo che così aumenta la concorrenza, aumentano, diminuiscono le tariffe. Lei che dice? Io dico che se ci fossero molti slot non utilizzati, nelle misure previste questi slot sarebbero stati già tolti e assegnati ad altri. Il fatto è che invece le bande orarie concedibili su Linate utilizzate a oggi sono state, io dico di fatto perché poi è evidente che ogni tanto qualche volo viene cancellato, ma viene saltato e viene cancellato e di conseguenza le bande sono, rispetto a quelle che sono le regole, utilizzate. Cioè non ci sono slot liberi? Se comunque ci fossero delle bande libere, se ci fossero, siccome le richieste su Linate sono innumerevoli e sono innumerevoli da anni, esiste una lista di compagnie che stanno attendendo per cominciare a operare da quell'aeroporto e non è detto assolutamente, perché non può essere detto, a meno che lo dica un'autorità superiore, che le bande devono essere assegnate a qualcuno per andare da Roma a Linate, lo potrebbe dire il buonsenso, ma la compagnia che avrebbe più diritto ad esercitare quella rotta, quello slot, Può darsi benissimo che invece abbia altri interessi commerciali. Cioè non andare, andare a Varsavia. Il dato di fatto però che per esempio i consumatori, vediamo se Gianni Dragoni ci diceva prima non c'è un'indagine approfondita. Voglio chiedere conferma Paolo Martinello che presiede Altro Consumo, una delle associazioni dei consumatori. Buongiorno. C'è qualche indagine? Cioè i consumatori si dicono arrabbiati, però è una frase un po' che si sente tutti i giorni, diciamo, consumatori. Saremmo arrabbiati se le cose andassero come volesse con la Ninno, diciamo saremmo ancora più arrabbiati. Il piano all'Italia indubbiamente aveva questa grossa pecca del Milano-Roma, lo sapevamo tutti, era previsto anche dal piano proprio questo monopolio imposto dalla nuova operazione. In più, e questo sì ci ha fatto arrabbiare, in più il taglio delle mani o almeno di una mano dell'antitrust, il quale non può garantire in questo caso quello che avrebbe normalmente fatto. Che cosa avrebbe normalmente fatto? Né più né meno di quello che fa quando ci sono fusioni di banche piuttosto che di imprese produttive. Avrebbe imposto alla nuova impresa nascente dalla fusione di cedere, così come nel caso delle banche, un certo numero di sportelli bancari, per esempio di chiudere o cedere un certo numero di sportelli bancari in certe regioni dove si crea una dominanza di mercato, avrebbe imposto per esempio a Linate piuttosto che in altri aeroporti di cedere una parte degli slot. Questo oggi l'antitrust probabilmente, sottolineo probabilmente, non lo può fare in questo momento, non è detto che non lo faccia in futuro, ma in questo momento il provvedimento che governa l'operazione all'Italia ha limitato queste possibilità dell'antitrust e questo ci fa arrabbiare perché è evidente che si crea un monopolio. Le indagini sui prezzi, guardi, le faremo perché è ancora presto per capire che cosa succederà. Una dinamica ovvia sarà che probabilmente le tariffe Air One, che sono tendenzialmente meno care di all'Italia, si allineeranno. Qui sappiamo che l'antitrust ha imposto che certe tariffe più economiche, una certa percentuale di prezzi economici della nuova Alitalia restino. Sarà sufficiente questo? Non lo so. Intanto, anche se le tariffe resteranno quelle di prima, indubbiamente saranno carissime. Questo sì, tutti, c'è da dire che ieri Colaninno ha detto che è sulla media sui 120-130, poi chiaramente le inchieste poi sono andate a beccare quei prezzi quando io dicevo costa più volare a Milano, a Roma che a New York, perché è stato comprato, credo, un prezzo a 325 euro andata e ritorno con proprio il 2 febbraio, cioè oggi, con un prezzo invece Aer Lingus per New York 274 euro. Gianni Dragoni, hai sentito Griselli dire gli slot non ci sono, ma anche se ci fossero liberi andrebbero assegnati in precedenza a chi l'aveva chiesti per tempo e magari chi l'aveva chiesti per tempo neanche vuole andare a Roma da Milano o viceversa. Ma Griselli è un bravo professionista e quindi conosce bene la materia anche tecnicamente, ma mi pare che lui stesso ci ha fatto capire con parole diciamo garbate, ma che c'è un trucco, e cioè che le sembra che gli slot siano tutti assegnati, poi qualche volta il volo salta. Perché? Perché evidentemente una compagnia, per non perderli, una compagnia, in questo caso la compagnia unica, cioè la nuova Alitalia, è capitato anche a me, ma a tanti, che nei voli a metà mattina, quelli con meno traffico, il volo ritarda di un'ora, perché guarda caso va a coincidere col volo successivo, così l'aereo forse è un po' meno vuoto. Così quello slot sembra non usato quel giorno, ma se questa pratica si diffonde tutti i giorni, in realtà uno occupa tutte le sedie e poi dopo in realtà poi gli amici che devono sedersi su quelle sedie non ci sono. Griselli vuole replicare su questo, è un trucco a volte, lei non lo può sapere, però ce l'ha detta effettivamente. No, lo può sapere, ma forse non lo può Griselli, dire. Griselli, è un trucco? No, il trucco, certe volte potrebbe essere un trucco, certe volte potrebbe essere questa cosa per chi vola o chi è nel settore lo sa benissimo, una volta potrebbe essere un trucco, un'altra volta potrebbe essere, ma questo da parte di chiunque, potrebbe essere una necessità operativa, altre volte può essere una macchina che si è rotta, un aeroplano che si è rotto o così via. Resta il fatto che l'aeroporto segnala e se ha programma, noi ci risulta qualche cosa, tentiamo, cioè interveniamo, calcoliamo le percentuali e così via. Resta il fatto che noi per esempio abbiamo chiesto recentissimamente, parlo di 2 o 3 giorni fa, io purtroppo sono immobilizzato a letto in questo momento, ma comunque abbiamo chiesto se è tutto messo per Linate, abbiamo chiesto se tutto nei sistemi di vendita. Perché se il volo è venduto, deve volare, insomma. Martinello, anche su questo fronte forse è il caso che i consumatori indaghino, cioè capire quanti, però lì forse si va poi nel tecnicismo, come si fa a sapere se un volo che salta è saltato perché è un trucco oppure perché è rotto l'aeromobile. Beh sì, non è facile questo tipo di indagine, ma si potrà fare, e ripeto, forse meglio ancora di noi lo potrà fare un'autorità di controllo come l'antitrust, che comunque ha ancora il potere, ovviamente, fortunatamente, di indagare su come vanno certi mercati come quello aeroportuale milanese, Milano, Malpensa e Linate. Ripeto, il problema qui adesso è non solo il monopolio, questa è una faccia della medaglia, il monopolio Milano-Roma, e anche questo famigerato piano all'Italia che rispunta fuori anche dopo la nuova operazione, che è non solo di mantenere questo monopolio ma anche di ridurre ulteriormente l'operatività di Linate sostanzialmente al solo Milano-Roma, in modo da impedire anche la concorrenza su Malpensa. Questo è lo scenario che ci preoccupa di più, e che se si dovesse attuare sarebbe come dire, non solo la fine della concorrenza sulla Milano-Roma, che già oggi esiste e che andrà casomai ricreata, ma addirittura ancor meno concorrenza e possibilità di scelta dei consumatori sui voli in partenza da Malpensa, perché è evidente che se io per andare a New York, per andare a Tokyo, per andare in Sud America non avrò più nemmeno l'alternativa di partire da Linate e andare a Francoforte piuttosto che a Parigi, piuttosto che a Bruxelles, sì, e dovrò inevitabilmente partire solo da Malpensa, questo sarebbe un ulteriore vantaggio competitivo, sì, ma scorretto. Sì, anche se dalle parole dello stesso Colaninno di ieri pare che insomma Malpensa sia destinata almeno l'alternativa, due aeroporti così a distanza di 40 km Linate e Malpensa non possono stare così in vita, insomma, e questo ha fatto capire in maniera abbastanza chiara ieri Colaninno. Grazie a Gianni Dragoni, grazie a Carlo Griselli e Paolo Martinello. Un messaggio di una ascoltatrice, Cecilia, che ci dice: altro che comparare i prezzi, 320 euro non sono neanche più alti, dice, un biglietto aperto per Roma supera i 550 euro, accidente, insomma. Beh, biglietto aperto, andate e ritorno, insomma, sarà la tariffa più clamorosa che ha trovato Cecilia. Certo che è una tariffa clamorosa, questo sì, per 40 minuti, 45 minuti di volo Milano-Roma. Prenda il treno, che le devo dire. Le 8:49 minuti, voglio salutare il direttore del quotidiano L'Adige, Pierangelo Giovanetti. Direttore, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, le chiedo, quanto guadagna un consigliere provinciale, un consigliere regionale in Trentino Alto Adige? Guadagna una bella cifretta, perché sono 14.359 euro al mese, sono 70 questi consiglieri. Accidenti, lordi almeno spero. Lordi, questo è il lordo, che vuol dire al netto comunque un 7.300 euro, che sono la paga base, perché poi si aggiungono tutta una serie di altre voci che portano il consigliere appena arrivato in consiglio, perché noi abbiamo votato il mese scorso, a prendere 10.000 euro netti al mese. 10.000 euro netti. Semplice, senza alcuna carica. Allora, che cosa è successo? È successo che con il 2009 c'è stato anche un adeguamento non votato, no? L'Istat, insomma, un adeguamento. Esatto. La legge che il Consiglio regionale si è dato prevede che scatti automaticamente l'aumento. Quindi con gennaio sono aumentati di altri 300 euro questi stipendi. 300 euro. Beh, insomma, 10.000 euro netti non sono male, per carità, cioè non è neanche forse una delle regioni in cui si guadagna di più, in altre regioni sono messi meglio. Però lei ha fatto un editoriale qualche giorno fa a dire: cari consiglieri, è vero che la politica costa, è vero che si è fatto tanto magari per la crisi, so che la regione ha messo dei fondi speciali per la crisi, però visto che la politica è anche fatta di gesti simbolici, fin tanto che si vuole, però di gesti, rinunciate a questi 300 euro e devolveteli magari in un fondo per far fronte alla situazione economica. Questo è il succo dell'editoriale. Certo, perché ci sono due aspetti. Uno, che quello che abbiamo detto, 10.000 euro base, sono per tutti i consiglieri, ma poi si aggiunge per la maggior parte l'incarico che fa il consigliere questore, che fa il presidente del consiglio regionale, poi ce ne sono due del consiglio provinciale, si arriva anche a 21-22 mila euro al mese, sto parlando di lordo. Per esempio il presidente del consiglio regionale, si trovano 6 volte all'anno, guadagna quasi 22 mila euro al mese. Allora la prima proposta è questa, garantiamo lo stipendio a tutti, ma chi assume una carica, un impegno, che sia di questore, che sia di vicepresidente, così lo faccia senza un'aggiunta ulteriore, senza raddoppio di stipendio. E la seconda proposta, visto che la crisi sta provando molte famiglie, molti lavoratori, perché non blocchiamo per quest'anno questi aumenti, quest'anno o l'anno prossimo, finché la crisi non passa, e li devolviamo ad un fondo di aiuto, di solidarietà. La risposta, vabbè, qualcuno ha detto è demagogia, guardate alle cose serie invece che a questi 303 euro che erano dovuti appunto per adeguamento Istat, ma qualcuno che ha detto lo faccio ci sarà? Sì, ci sono, perché secondo me poi la politica è fatta anche di simboli, per cui è vero che 300 euro comunque per 70 consiglieri al mese fa comunque una cifretta. Però è importante il simbolo, far vedere che i politici la crisi non la dicono o non la vivono solo a parole, ma anche di fatto con la solidarietà. Devo dire che la proposta ha riscosso interesse e adesioni. Adesso noi controlleremo come giornale, come Adige non daremo tregua, che chi li dà? Eh beh, chiaro, chi perché sì, se no la politica rischia di essere la politica dell'annuncio, no? Se no per l'opinione pubblica si dice sì sì sì e poi non si fa. No, devo dire che c'è stato anche qualcuno che però l'ha accusato un po' di demagogia, forse il presidente dell'AI, anche il presidente di Trento, no? C'è questa, da parte dei politici, sempre questa stizza quando si parla del loro stipendio. Allora io credo che in una democrazia trasparenza vuole che si dica senza toni enfatici, senza gridare alla vergogna, perché per carità la politica, il paese ha bisogno di politica, sì, e la politica giusto venga retribuita, però indicare con precisione le cifre che vengono assegnate, anche perché oltre agli stipendi vi sono per esempio 14.000 chilometri l'anno di rimborsi gratuiti per ciascun consigliere, sì, vi sono telefoni, esattamente 2.000 euro mensili per pranzi e cene. Insomma, dà fastidio poi quando viene spiattellato quello che poi dovrebbe essere trasparente. Esatto, allora io credo che invece una comunità debba sapere quanto percepisce, certo, il politico, e anche perché così può verificare se quanto fa corrisponde perlomeno a quanto riceve. Oddio, insomma, non ci mettiamo in questo ginepraio con questa domanda e risposta, anche perché ci fermiamo qui. Vogliamo ricordare, perché ci scrivono un messaggio, parliamo di assessori o consiglieri? No, consiglieri della provincia autonoma di Trento, e consiglieri della provincia autonoma di Bolzano, questo prendono. Grazie direttore, grazie a Pierangelo Giovanetti, direttore dell'Adige, seguiremo questa campagna a cercare di capire quanti aderiscono. Vi ricordo in chiusura, ringraziando Alessandro Marco Tulli, Laura Marchesi in redazione e Carmelo Lauricella in regia, che tra poco parliamo con l'elefante Giuliano Ferrara, c'è il ministro dell'economia Giulio Tremonti. E allora 800 24 00 24 per le vostre chiamate, l'incontro con Giulio Tremonti tra poco dopo GR24. Noi a domattina.